Avevo 16 anni, facevo la terza liceo ed ero in gita a Follonica. Che uno dice, per quale motivo il liceo Antonelli di Novara porta i suoi studenti in gita a Follonica a febbraio? Il fatto è che a Follonica non c'è nulla da fare effettivamente, però l'intorno ci sono i soffioni boraciferi dell'Arderello, il parco dell'Uccellina e i resti etruschi di Populonia. Chiunque abbia mai fatto una gita scolastica, però, sa che agli studenti la meta della gita interessa sempre quanto il saggio di danza classica della propria sorella. L'importante è essere tutti insieme su un pullman e poi in un albergo. Potrebbero portarti anche sul grande raccordo anulare di Roma o all'Ilva di Taranto. A te non te ne frega niente. L'importante è occupare i posti in fondo sull'autobus e poi imboscarsi nelle camere delle ragazze. A Follonica accadde esattamente così. L'unico punto di interesse di quei tre giorni si chiamava Michela e stava nella terza B. Dopo due notti di delirio, l'ultima sera, la professoressa di lettere ci aveva minacciato. Chiunque fosse uscito dalla sua stanza sarebbe stato sospeso. Il problema però è che a 16 anni il richiamo ormonale è tale che per un bacio sulla bocca daresti in pasto ai leoni il tuo compagno di banco. Quindi io e altri tre scavalcammo la barriera che separava la balconata. Sì, lo so, è pericoloso, non si dovrebbe fare, ma non l'abbiamo fatto. E in quattro ci infilammo nella camera delle ragazze, quella di Michela. Non accade nulla, ovviamente, solo che il rumore all'interno della stanza era di quelli che fanno sospettare chissà che. E la professoressa Ferri iniziò a bussare fortemente alla porta della stanza. Gli altri tre si dileguarono scappando dal balcone, io invece mi infilai nell'armadio. Ero un cretino e l'avevo visto fare in un film. Il problema è che anche la professoressa aveva visto quel film, perché la prima cosa che fece fu aprire l'armadio. Mi trovai di fronte alla sua faccia, che mi guardava con la sorpresa di chi non crede che quello che pensava di trovare sia veramente lì. Perché nascondersi nell'armadio è una cosa fin di serie B, di quelli con Lino Banfi ed Hugh Fenech. E invece io ero proprio lì. E quando mi sono accorto che ero stato colto in flagrante, l'ho guardata e l'ho detto: «Prof, non è come pensa».